L'aria era calda, malgrado il sole stesse per tramontare, la temperatura superava ancora i 30 gradi, lì nel sud della Florida. Due donne erano sedute al tavolino di un bar sulla spiaggia, con vista sull'oceano. Dalla strada arrivava il rumore delle auto che passavano e di qualche clacson. Ingrid Sten e Victoria Brunberg non si erano mai incontrate, ma avevano un segreto in comune. La conversazione era cauta, timida e cortese. «Hai detto che sei stata a Barbados?» chiese Ingrid. «Sì, per Natale. Ci sono stata anche l'anno scorso con il mio fidanzato», rispose Victoria. «È gentile?» «Molto». Victoria si portò il bicchiere alle labbra e lo svuotò. «E tu?» Ingrid scosse la testa. «Io vivo sola con mia figlia». Fece un gesto verso la spiaggia, dove una bambina bionda giocava tra le onde. Non si erano rivelate i loro nomi, era più sicuro così. Solo Ingrid sapeva che la donna che stavano aspettando si chiamava Birgitta Nilsson. Attorno a loro erano quasi tutti turisti, coppie che si fotografavano a vicenda o guardavano il mare turchese. Quando passò una macchina della polizia con le sirene accese, entrambe trasalirono. Poi si misero a ridere. «Dove può essere?» chiese Ingrid. «Forse non verrà. Aspettiamo ancora un po', cosa dici?» Chiamarono il cameriere e ordinarono altri due mojito. Il ragazzo arrivò subito con due bicchieri appannati su un vassoio, la menta che spuntava verde da sotto lo strato di ghiaccio. Una donna di una certa età si guardò intorno un attimo prima di avvicinarsi al loro tavolo. Aveva i capelli bianchi ed era molto magra, di un pallore che spiccava tra i turisti abbronzati. Fissò la maggiore delle due donne già sedute, mentre Victoria le guardava senza capire. «Vi conoscete?» Ingrid e Birgitta continuarono a guardarsi per un po', poi scoppiarono a ridere. Qui finisce Donne che non perdonano di Camilla Läckberg.